Vincenza Bonetti, che è la nostra ospite dei lunedì letterari. E ci siamo conosciute per caso, probabilmente ancora l'anno scorso, quando abbiamo fatto con l'associazione Arberia, vero, il documentario. Ringrazio qui i rappresentanti, i tuoi miei protagonisti, ecco, volevo dire. Ecco, e del libro, che appunto ha una grande componente autobiografica e che narra quindi anche delle storie vere, però vissute e narrate da una bolzanina, perché Lorenza Bonatti ha studiato lingue straniere, è tornata a Bolzano dopo un periodo trascorso in Germania e in Inghilterra, e qui lavora come traduttrice. Esatto. Ci siamo incrociate in varie occasioni per varie strade della vita, e questa sera finalmente è con noi in biblioteca e ci racconterà, scopriremo il tuo aspetto letterario. Ecco. Allora io darei il via, inizierei con devo accendere? Meglio accendo, si sente niente? Pronto? Non è un video, per cui vabbè, creiamo l'atmosfera. Creiamo la suspense. Oh, scusate, è successo qualcosa? Letto per voi, i libri più belli, letti all'Ateniene. Buon pomeriggio da Vicky Mangone, benvenuti a Letto per voi, una striscia dedicata ai giovani scrittori. Il libro che prenderemo in esame nella puntata odierna è dedicato a una sensibile scrittrice, il suo nome è Lorenza Bonetti, che con una penna a tratti graffiante, a tratti incalzante, ma anche riflessiva in tutta la drammaticità della storia, fa il suo esordio nel mondo dei libri. Questa sua prima opera è possibile acquistarla sul sito www.ilmiolibro.it e il titolo è Vento da Est. Buon ascolto. La nave procedeva lungo la sua rotta, avvolta dal vento della notte. Il mare era grosso e alte onde si infrangevano sullo scafo, sollevando verso l'alto nuvole di spuma bianca e gelida che andavano a bagnare il ponte di coperta, schizzando a casaccio chi lo occupava. L'idea di scrivere Vento da Est è nata da una storia vera che mi è stata regalata, ambientata nel 1992, prima in Albania e poi in Italia. Questo periodo per l'Albania è un momento molto importante, perché stavano accadendo degli avvenimenti che poi hanno segnato la sua storia e il suo cambiamento anche, ovvero la caduta del regime comunista. Un brivido di freddo gli attraversava la pelle come una rava d'acciaio. Erano quelli gli istanti in cui si pentiva di aver scelto quel posto. Contò mentalmente le ore che ancora avrebbe dovuto trascorrere in quelle condizioni. Aprì gli occhi per un attimo. Gli sembrò di essere approdato in un girone dantesco, dove Caronte, non parlo del suo ruolo di traghettatore di anime verso la dannazione eterna, avesse voluto togliersi lo sfizio di dare ai suoi passeggeri un assaggio di ciò che sarebbe stato il loro destino. Era immerso nella miseria umana, un granello di sabbia in una spiaggia di sofferenza, fatta di centinaia di persone, la maggior parte giovani, ma anche uomini di mezza età, famiglie e bambini. Anziani, no, non se ne vedevano. Tutti muti, intirizziti dal freddo, stanchi e provati, con il medesimo flebile, ma ancora acceso, bagliore negli occhi, quello della speranza. Questa nave è talmente affollata che c'è quasi da chiedere il permesso per sbattere gli occhi, rifletté, sorprendendosi della nota umoristica di questo pensiero in una situazione così drammatica. Questo romanzo non vuole assolutamente essere un romanzo storico, ma una visione personalissima degli eventi accaduti in questo paese, visti attraverso gli occhi di un ragazzo di 20 anni. Non sapeva che anche lei aveva deciso di andarsene. Appena si erano visti, si erano corsi incontro e si erano abbracciati, aggrappandosi l'uno all'altra come due naufraghi a una zattera. Lasciare la propria terra con uno della famiglia sembrava avere un sapore meno amaro. Di fronte, a destra della donna con il bambino, era accovacciato Artan. Doveva essersi addormentato. La testa gli ciondolava sul petto, sobbalzando al ritmo delle onde. Dalle labbra semiaperte gli usciva un rivolo di saliva che scendeva dall'angolo della bocca e finiva sul giubbotto di lana verde scuro. Faceva impressione vedere un uomo della sua stazza in un atteggiamento così indifeso, abbandonato, sfinito. Non si è neppure fatto. Allora, la seconda parte del libro è ambientata in Italia, quindi dove Malek, il protagonista, insieme ai suoi compagni di viaggio, arrivano con la nave e a questo punto la vita di Malek si intreccia con quella di Alina. È una ragazza italiana, profondamente sola e alla disperata ricerca della propria strada, e che però purtroppo è imprigionata nel perverismo e nelle regole imposte dai genitori. I due ragazzi, sono i due alla ricerca di una propria libertà, quella di Malek, dal regime, da una vita inchiodata da una situazione politica, e Alina invece alla ricerca della sua libertà personale. E questo è il punto di aggancio dei due protagonisti, che cominciano a dare il via a una vita diversa per entrambi. Quando uscì dal portone, venne investito da una folata di vento freddo e umido. Malek guardò verso l'alto. Era da mattino che si avvicendavano fitte pioggerelle e schiarite, ma ora il cielo era plumbeo e cupo, proprio come il suo animo. Tirò su il bavero della giacca, affondò le mani nelle tasche e attraversò il cortile. Appena fuori dal cancello, prese a sinistra in direzione della stazione a soli 4 isolati da casa sua. Camminava spedito quando a un tratto si sentì chiamare alle spalle da una voce inconfondibile, straziata e straziante. Si voltò e vide sua madre che, affannata, lo stava rincorrendo gridando il suo nome per attirare la sua attenzione e fermarlo. Con una mano teneva il suo vecchio scialle di lana nera che si era buttata sulle spalle in tutta fretta. Aveva i capelli scarmigliati che per la corsa si erano liberati dalla crocchia in cui li raccoglieva da sempre. A Malek parve di scorgervi qualche striatura d'argento più del solito. Ma forse era solo un'impressione, forse era colpa del colore del cielo. Sua madre piangeva e nel contempo rideva felice della fortuna di essere arrivata in tempo per vedere ancora un'ultima volta il suo adorato figlio. Non sapeva come le era venuta quell'idea improvvisa di uscire di corsa dal panificio in cui lavorava. Forse era il suo istinto di madre. Forse qualcosa, nelle notizie che sin dal mattino ne avevano portato i vari avventori, aveva fatto scattare un presentimento dentro di lei, che le diceva di correre, altrimenti sarebbe stato troppo tardi e non l'avrebbe più rivisto. Ed ora era lì, trafelata per la corsa, a pochi passi da lui, il suo Malek, che se ne stava andando. Che sarebbe andata così, che sarebbe dovuto fuggire da un presente ostile per andare verso l'ignoto, e non sapeva se essere felice o disperarsi per la sua perdita. Faceva fatica a rassegnarsi al fatto che la cosa migliore per lui era lasciarlo andare. Madre e figlio si guardarono a lungo, in silenzio. Nessuno dei due aveva il coraggio di avvicinarsi all'altro. Nessuno dei due sarebbe stato in grado di sciogliersi da un abbraccio. È una storia, sebbene costellata di momenti difficili, drammatici e di grande sofferenza, è una storia positiva che ha un lieto fine. E questo mi sembrava un messaggio importante da dare. Non sempre le storie di immigrati sfociano in eventi drammatici, ma possono anche portare qualcosa di positivo. Mi ha colpito tantissimo la grande umanità, l'accoglienza e l'amicizia in cui si è abbattuto Malek, il protagonista, che ha prevalso rispetto al razzismo e all'intolleranza. Sentirsi dire che tutto sarebbe tornato a posto, che nessuno gli avrebbe mai fatto del male e costretto ad abbandonare la sua casa, che sarebbero stati forti insieme, proprio come quando era morto suo padre. Avrebbe voluto perdersi nel petto di quella madre che, ora ne era consapevole, non era venuta lì solo per salutarlo, ma per confortarlo e fargli capire che sapeva e comprendeva, che sarebbe stata dalla sua parte, sempre e comunque. Era venuta. Allora, Afrodite è il mio libro di vendita sul sito www.ilmiolibro.it. Ho istituito anche una pagina Facebook per entrare in contatto con chi mi ha letto, sentire i loro commenti e anche le loro critiche, perché no? Su Facebook basta digitare Vento da Est oppure il mio nome Lorenzo Bonetti e si accede al sito. Ora vai. Valeria non sapeva quanto tempo sarebbe passato prima di poter sentire di nuovo la voce di sua madre, il calore delle sue carezze sul viso. Lentamente si voltò e cominciò a camminare senza fretta, le spalle curve come se fossero gravate da un peso enorme e insopportabile. Di quando in quando si voltava a guardare quella piccola donna, così difesa ma così forte, che immobile nel punto in cui l'aveva lasciata, lo continuava a salutare con il cenno della mano, aspettando di vederlo scomparire. Prima di svoltare l'angolo, Malen si fermò un istante e tornò a guardare sua madre in lontananza. Era l'immagine che avrebbe portato nel cuore e nella mente per sempre, che non avrebbe mai più dimenticato, così come le sensazioni che provava, un dolore al petto, un nodo alla gola e una voce proveniente da chissà dove che parla per lui. Un giorno tornerò e ti porterò via con me! Girò l'angolo e quell'immagine sparì per sempre. Questo era Vento da Est di Lorenza Bonetti, potete trovarlo su www.almiolibro.it. Grazie all'autrice e grazie a Gianmarco Cecconi che l'ha letto per noi. Da Vicky Mangone è tutto, a risentirci. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie a Valeria Trevisan per avermi dato questo spazio. Ho voluto iniziare con questa registrazione, primo perché insomma è stata, mi è piaciuto molto come è stata montata, è stato un regalo, è un programma che è andato in onda su tutta su Latte Miele, una radio in tutta Italia, una radio nazionale. E anche perché sono stati letti due brani salienti che poi sono stati quelli che hanno dato inizio, hanno dato il via al romanzo. Come avete già potuto capire, è un romanzo che narra la storia di un giovane ragazzo, di due giovani ragazzi, che adesso sono un po' meno giovani, sono seduti qui davanti, e che sono partiti dall'Albania nel 91, anzi mi scuso perché ero talmente emozionata durante questa intervista che ho detto 92, e ho sbagliato. In realtà gli eventi risalgono al 91, che sono partiti appunto dall'Albania nel momento in cui, forse uno dei momenti più drammatici dell'Albania, dove quando sono cominciate le sollevazioni popolari, la rivolta degli studenti che ha dato poi il via alla caduta del regime, all'abbattimento della statua di Enver Hoxha, che era poi il simbolo della dittatura, e quindi il grande esodo verso l'Italia in primis e poi verso gli altri paesi dell'Europa. E come dicevo in questa presentazione, non vuole essere un romanzo storico, sebbene ci siano dei riferimenti storici ovviamente, ma vuole essere proprio una visione personalissima vista proprio dagli occhi di questi ragazzi, Malen, il protagonista principale, e il suo compagno e amico di avventura sventura, Artan. Artan, forse è meglio dire, no? L'accento giusto. Che appunto partono insieme, fanno questa traversata durissima. Ci ricordiamo tutti quanti le navi che sono arrivate nel 91, che hanno fatto il giro d'Italia, d'Europa, del mondo. Con tutto poi l'iter di integrazione, di sofferenza, di abbandono delle proprie famiglie, di accoglienza e di ricominciare una vita. Perché ho raccontato questa storia? Perché quello che mi aveva colpito prima di tutto era la positività, il messaggio positivo che questa storia dava. Era una storia di grandissima umanità, una storia priva di gravi episodi di razzismo, una storia di grande speranza e di grande integrazione, per cui mi sembrava importante raccontarla, proprio perché spesso e volentieri, troppe volte anche si sente, di storie di immigrati che arrivano e subiscono di tutto, hanno una vita difficile, sono senza speranza, tornano nelle loro terre sconfitti. Invece questa proprio mi aveva colpito in continuazione per i messaggi positivi. È una storia storia condensata in pochi mesi, quella del romanzo, che poi in realtà invece è fatta di episodi che poi si sono svolti nei 20 anni di vita di questo personaggio principale e del suo compagno, che hanno vissuto qua in Italia, no? Naturalmente per motivi letterari ho dovuto condensare creando una storia che avesse un inizio e una fine, avesse un filo logico, fosse un romanzo leggibile da un vasto pubblico, quindi non storico, non ricco di dettagli storici, ma che fosse anche fruibile da parte di ragazzi giovani. Una dei recensori che hanno scritto e parlato del mio romanzo l'hanno definito anche un romanzo di formazione, proprio perché c'è un'evoluzione, c'è una crescita dei personaggi all'interno di questo romanzo, che portano poi a una svolta nella loro vita. Come dicevo anche nel programma radiofonico, non è la storia solo di questi due personaggi albanesi, ma ad un certo punto il romanzo è praticamente diviso in due. La prima parte narra dell'esodo, della partenza di questi ragazzi con tutto quello, con le loro emozioni, il loro carico di sofferenza, appunto, e poi l'arrivo in Italia, dove veramente inizia una nuova vita, e lì c'è l'incontro con questa ragazza italiana che si chiama Lina, è una volontaria che vive a Brindisi, ma è una ragazza molto sola, è una ragazza che appunto è imprigionata nelle regole della famiglia, una famiglia benestante, borghese, pervenista, che la vuole in un certo modo, e lei non è libera di vivere la sua vita come lei lo desidera. E questi ragazzi, lei e Malen si incontrano, lei fa l'insegnante di italiano per questi extracomunitari, a scopo appunto di una migliore integrazione, e anche questa storia l'ho attinta da una storia vera, perché poi scrivendo mi sono giunte all'orecchio molte storie che hanno creato il tessuto proprio di questo romanzo, no? E che poi ho messo insieme sotto forma di storia, no? E questa Lina appunto incontra durante questi corsi di italiano Malen e ne nasce prima un'amicizia e poi un amore. E c'è un parallelismo tra i due, come si sentiva dalla trasmissione, ossia questa ricerca della libertà. Malen dà una libertà che non ha mai avuto, quella di un regime oppressivo, della dittatura, dove non ha potuto neanche scegliere la professione, non ha potuto neanche aveva nessuna possibilità di scelta. E Alina invece, che vive in una società dove questo dovrebbe essere garantito, anch'essa impossibilitata a scegliere. E lì c'è l'aggancio tra due personaggi che poi intraprenderanno un cammino comune e si salvano a vicenda, tutto sommato, lui salva lei e lei salva lui, no? E io avevo anche preparato, se avete voglia, se vi fa piacere, un paio di altri brani da leggervi che secondo me sono salienti anche per capire un po' l'andamento della storia, e, perché ho dimenticato di dire che fondamentalmente, oltre che una storia di migrazione, è una storia di amicizia, di amore e di umanità. Mi ci tenevo anche a segnalare proprio, a raccontare come le numerose manifestazioni di umanità che hanno avuto questi due ragazzi, che secondo me se ne parla troppo poco, si parla troppo spesso della negatività, si parla troppo spesso del razzismo, però non si parla della grandissima accoglienza delle persone che veramente sanno dare amore gratuitamente, senza volere nulla in cambio, se non l'amore di ritorno, diciamo, no? Poi potranno raccontare i due protagonisti magari qualche episodio concreto. Io vi leggo intanto quello che ho scritto. Partirei con un episodio che narra appunto il viaggio in treno da Tirana a Durazzo, sì. Ho avuto un attimo di sbandamento. Durazzo in treno, dei due protagonisti. Il viaggio di Malen verso Durazzo si svolse come se il treno fosse avvolto nella nebbia di un'allucinazione. Per tutto il tragitto era rimasto seduto accanto al finestrino. Le lacrime gli offuscavano la visuale e gli impedivano di vedere il paesaggio che gli correva davanti agli occhi. Non lo guardava neppure, come non si era accorto degli altri occupanti dello scompartimento, tutti con lo stesso sconforto, tutti con lo stesso sguardo vuoto. Artan, invece, non era stato capace di stare seduto neppure un attimo, alternava momenti in cui si appoggiava al finestrino per contenere i sussulti dei singhiozzi, a momenti in cui camminava avanti e indietro lungo il corridoio, come una tigre in gabbia, pronta a scattare fuori non appena si fosse aperto il cancello. I due amici non si erano scambiati neppure una parola, si erano chiusi ognuno in se stesso, senza guardarsi, senza nemmeno provare a confortarsi, forse perché non c'era nulla da dire. Conoscevano perfettamente l'uno le sensazioni dell'altro e verbalizzarle avrebbe fatto solo più male. Forse anche per una sorta di pudore e vergogna. Loro, che erano ammirati da amici e compagni di scuola per il loro coraggio, la loro capacità di ribellarsi, sprezzanti dei rischi che correvano ogni volta, loro, che con l'impudenza della giovane età si sentivano invincibili, stavano lasciando da fuggiaschi il loro paese, le loro famiglie, la loro vita. Il sogno di esploratori, già svanito dall'evidenza di una sua utopia, li stava guardando dall'alto della sua crudezza con un sorriso sadicamente compiaciuto. Ed ora erano lì, a bordo di quel treno, all'inizio di un viaggio di cui non conoscevano la meta. Senza niente, neppure un sacchetto con poche cose, solo qualche banconota e una valigia carica di incertezze, di punti di domanda, di pericoli incognite. Non era così che doveva andare, non era questo che credevano di meritare. Con questa consapevolezza e il cuore pesante, era difficile guardarsi negli occhi, leggere il fallimento nelle lacrime dell'altro e trovare parole di conforto. La lenta e costante andatura del treno non aveva fatto che cullare la tristezza di Malin, lasciandolo sprofondare in una sorta di grigia apatia. Tutto a un tratto, però, il treno cominciò a rallentare, fino a fermarsi del tutto con uno stridore delle ruote. Malin fu scosso dal suo torpore. «Siamo arrivati», pensò, guardando fuori dal finestrino. Ma non si vedevano case né a destra né a sinistra della carrozza. Scrollò la testa. Le solite fermate in mezzo a nulla, si disse, sicuro che sarebbero ripartiti di lì a pochi minuti. Tuttavia il tempo passava e il treno non dava cenno di muoversi. I passeggeri, che come Malin non avevano dato nessun peso alla cosa, cominciarono a guardarsi intorno con inquietudine e a interrogarsi sul significato di quella fermata prolungata. Alcuni si erano alzati e avevano tirato giù i finestrini per controllare cosa stesse accadendo, ma nessuno riuscì a capire. Cominciò ad aleggiare l'ipotesi che il convoglio fosse stato fermato da un posto di blocco, con i significati e le conseguenze che ciò implicava. Tutti tornarono ai loro posti e nessuno ebbe più il coraggio di muoversi. Dopo un quarto d'ora, la tensione era così palpabile e l'aria così pesante da poterla tagliare con la lama di un coltello. Cosa stava succedendo? Cosa ne sarebbe stato di loro? Il treno era avvolto dal silenzio e dalla paura, ma lei era sulle spine. La cosa non presagiva nulla di buono. Un posto di blocco era la sfortuna peggiore che potesse capitargli, perché lo avrebbe consegnato direttamente nelle mani di coloro di cui stava sfuggendo. Anche Artan si era voltato a cercare il suo sguardo. Era visibilmente preoccupato. Pochi minuti più tardi, nella carrozza, risuonarono dei passi e un rumore familiare dell'apertura delle porte, accompagnati dalla voce del controllore che invitava i passeggeri a scendere dal treno. L'angoscia si dissolse in un attimo, presto rimpiazzata da una sensazione di sollievo e di allegria collettiva. Tutti balzarono in piedi e si lanciarono verso le uscite, quasi temessero che potessero rinchiudersi da un momento all'altro, intrappolandoli di nuovo nell'ansia e nell'incognito. «Che cos'è successo? Dove siamo?» disse Malin, appena il controllore gli passò accanto. «Siamo a un paio di chilometri da Durazzo. Il macchinista ha preferito fermarsi qui. Quindi, se volete scendere, è meglio che lo facciate subito», spiegò l'uomo. Il resto della strada avrebbero dovuto farlo a piedi da lì. Nessuno capì il motivo di quel fuori programma e nessuno chiese spiegazioni. La gioia per aver scampato un pericolo più grave aveva tolto a tutti ogni curiosità. Ma lei si avvicinò ad Artan, che era rimasto immobile per tutto il tempo accanto al finestrino, e prendendolo sotto braccio si apprestò a scendere. «Cavolo, Artan, me la sono quasi fatta sotto per lo spavento, ci mancava solo questa. Ti confesso che ho subito pensato al peggio», confidò Malin all'amico mentre aspettavano in fila il loro turno per uscire dal treno. Ma Artan non rispondeva. Aveva un'aria assente, stralunata. Malin si voltò verso di lui, non lo stava ascoltando e si muoveva quasi come un automa. Teneva lo sguardo fisso e vuoto davanti a sé. Malin vi lesse qualcosa di indecifrabile e oscuro. Artan era sconvolto, disorientato, perso nella sua mente. Aspettò che scendessero entrambi prima di parlargli. «Ehi, Artan, ci sei? Che cosa ti sta succedendo? Hai una faccia? Mi stai spaventando, non ti senti bene? Lo incalzò Malen preoccupato. No, no, tutto a posto, rispose l'amico con un tono vago, ma assolutamente poco convincente. Malen si fermò a guardarlo, lo conosceva troppo bene per non capire che qualcosa non quadrava. Lo tirò per il braccio lontano dalla gente che si era raccolta ai margini del binario e lentamente si stava incamminando verso la città. Artan, fermiamoci qui un attimo. Che ti succede? Sembri sconvolto. A cosa stai pensando? Parlami per favore, dimmi qualcosa, lo implorò Malen. A quelle parole Artan crollò sulle ginocchia, lasciò andare le braccia lungo il corpo e chinò la testa sul petto. Era esausto ed emotivamente provato. Malen aveva intuito quali fossero stati i pensieri dell'amico durante il loro trasferimento in treno, senza tuttavia coglierne la gravità. Doveva aver combattuto una battaglia interiore, da cui sembrava esserne uscito sconfitto. Il suo amico, quello delle lotte per un ideale, quello che sapeva sempre cosa fare, il più colto di tutti, in grado di motivare ogni cosa, cavillando su mille aspetti e sfumature, Artan, che aveva pianificato tutti i dettagli di questa fuga con determinazione e lucidità, era sparito, lasciando il posto a un uomo finito, distrutto, sopraffatto. Non ce la faccio, Malè. Non ce la faccio ad andare avanti. Non posso partire, non ci riesco proprio. Ho deciso di tornare a Tirana con il prossimo treno. Voglio tornare a casa. Fu quanto Artan riuscì a dire prima di essere soffocato dai singhiozzi. Malè si sentì perso. Prima Saimir, che non aveva fatto in tempo a raggiungere la stazione, lasciandogli addosso una schiacciante sensazione di rimorso, e ora Artan, che non se la sentiva più di proseguire. No, non poteva accadere anche questo. Anche se non rischiava quanto lui, era sempre uno degli attivisti dello sciopero studentesco. Non doveva tornare indietro, sarebbe potuto essere arrestato. Ma c'era anche una motivazione più egoistica in Malen. Non voleva partire senza il suo amico. Non ce l'avrebbe fatta neppure lui ad affrontare tutto da solo. Aveva bisogno di lui e non voleva permettergli di abbandonarlo proprio ora, a un passo da quella che, per il momento, era l'unica via di salvezza. Si accovacciò accanto a lui, circondandogli le spalle con entrambe le braccia in un abbraccio consolatorio, forte e protettivo. Lo lasciò sfogare, cullandolo come un bambino e pregando in cuor suo che non mollasse davvero. Sapeva bene che doveva essere forte per tutti e due, sebbene un nodo gli stringesse la gola e lacrime di scoramento gli pungessero gli occhi. Il suo amico aveva bisogno di tutto il suo coraggio, della sua determinazione, della sua forza e spavalderia per superare questa crisi. Appena sentì che Arta si fu un po' calmato, gli parlò dolcemente con fermezza. So bene cosa stai pensando, sono gli stessi pensieri che attraversano anche la mia mente. Quella che stiamo facendo è la scelta più difficile della nostra vita, ma non abbiamo molte alternative. Per me non c'è che il carcere, lo sai. E anche se questo rischio per te non è così incombente, pensaci, cosa ti resterebbe? Nessuna prospettiva, nessun futuro. Quante volte ce lo siamo detti? La nostra vita è stata miseria, fame, privazioni. Ora c'è questa opportunità, e per quanto nebulosa e incerta, è l'unica che abbiamo mai avuto. Cosa abbiamo da perdere? Proviamoci, insieme. Neppure io avrei voluto che le cose andassero in questo modo. Non erano questi i nostri sogni, lo so. Te li ricordi i nostri sogni, Arta? Te li ricordi? Quella domanda, ripetuta con angosciata insistenza, sembrò rivestare Artan, che annuì quasi impercettibilmente con il capo. Ora siamo qui, la situazione è questa e non possiamo fare nulla per cambiarla. Dobbiamo e possiamo solo guardare avanti. Vedrai, andrà tutto bene. Tra poche ore, con il prossimo treno, ci raggiungerà anche Saimir e poi ci imbarchiamo. Se stiamo uniti, riusciremo a superare tutto, riusciremo a combinare qualcosa di buono anche in Italia. E poi, quando la situazione si sarà calmata, torneremo di nuovo insieme e ci riprenderemo le nostre vite, te lo prometto. Mentre Malen parlava, Artan aveva alzato gli occhi verso di lui. Sapeva che Malen aveva ragione, quello che stava dicendo era tutto vero e sensato, non faceva una piega. Non potevano tornare indietro, ma lui non aveva più la forza di andare avanti. Non mi reggono più le gambe, fu l'unica cosa che riuscì a dire Artan in risposta alle esortazioni dell'amico. Non ti preoccupare, rispose Malen premuroso, non c'è fretta. Non hai detto tu stesso che la nave partirà in serata? Abbiamo tutto il tempo che vogliamo, riposiamoci per un attimo. Tu cerca di calmarti e non preoccuparti di nulla, ti aiuterò io. Non scoraggiarti, non farti prendere dall'ispirazione. Vedrai, Piano piano, un passo dopo l'altro, arriveremo insieme. Rimasero seduti sull'erba per un po', vicini e muti. Nel frattempo, un debole sole si era fatto largo tra le fitte nubi grigiastre, accendendo i colori della campagna e rendendo l'atmosfera meno cupa. Ecco, vi ho letto questo episodio. Vi ho letto questo episodio perché secondo me può dare un'idea di quello che è stato il travaglio di questi ragazzi giovani, pieni di sogni, ricchi di speranze, che dal momento, da un momento all'altro hanno dovuto partire senza assolutamente niente. E in merito a questo, visto che abbiamo due protagonisti, magari se volete raccontare un po' com'è stato questo viaggio, aggiungere qualcosa di vita vissuta, di realmente vissuto, oltre a quello che ho raccontato. Il più bello è difficile. Io il libro l'ho letto singhiozzando più forse che quando l'ho vissuto veramente. Da questo punto di vista è quello che è scritto è quello che è successo. Veramente, perché da un lato c'era proprio dovevamo scappare per paura e dall'altro ovviamente cioè, andare verso l'ignoto, poi comunque non è bello mai lasciare casa tua e poi soprattutto lo lasciavamo senza sapere quando potevamo tornare e se potevamo tornare. Sì. E perciò è stata la parte più brutta, almeno per me personalmente, ma penso anche per lui, e per lui anche fisicamente, perché ha dovuto trascinare praticamente da lì in poi finché siamo saliti sulla nave. Poi una volta saliti non hai più tempo a pensare a quello che stai facendo, ormai l'hai fatto, hai saltato il fosso e devi sopravvivere. Invece la parte più brutta dal punto di vista diciamo spirituale era proprio il viaggio che abbiamo fatto in treno, perché ovviamente eri ancora nel dubbio, avevi ancora la possibilità di tornare indietro. Invece una volta sulla nave, dopo un po' la nave si è anche staccata dalla panchina del porto e anche materialmente non poteva, a parte che eravamo in 7000 ed è veramente come viene raccontato che cioè quando tu ti stancavi stando accovacciato e ti alzavi c'era qualcuno che ti rubava il posto e tu dovevi aspettare che qualcun altro si stancasse per rubare il posto e questa roba per 18 ore di fila e ripeto per me è stato riattraversare di nuovo tutto il percorso che avevamo fatto e l'ho letto l'anno scorso quando ero in ferie in Croazia e ripeto l'ho letto praticamente anche adesso che le leggevo. Quando è che siete tornati la prima volta dopo questo viaggio? Dopo un anno. Ah. Però quando abbiamo avuto l'opportunità perché prima non so. Cioè quando siamo partiti se non avevamo né passaporto né documenti niente. Cioè, e poi all'inizio era anche la paura, cioè abbiamo aspettato che qualcun altro andasse e tornasse senza per avere la certezza nulla, per avere la certezza che potevamo tornare, insomma, anche se insomma, poi le cose ci sono state le elezioni politiche, il governo era cambiato, tutto insomma. Riprendo. Ecco, questa lettura, non so se avete fatto caso che il nome è un certo Saimir, che è il terzo amico che avrebbe dovuto partire insieme a loro, ma che purtroppo non ce l'ha fatta. E nel libro verrà poi raccontata la storia del perché non ce l'ha fatta e poi come andrà avanti, qual è stato il suo destino, no? Non, prego. Non è Saimir Pirgo. No, i nomi sono tutti fittizi. Sa chi è Saimir Pirgo? Sì. Ah, ok. Qualche giorno fa ha avuto il premio grande tenore internazionale che è arrivato a Bolzano, sì. È andato a stare al Rainerum che puliva i tavolini, ha studiato, è diventato adesso è uno dei migliori tenori. Tre quattro giorni e fa canta benissimo. O una settimana fa ha avuto il premio che si chiama Pavarotti d'oro. Ah, sì, sì. Aveva incontrato Pavarotti, c'è una famosa intervista anche in internet. Aveva incontrato Pavarotti a Merano quando Lui è stato allievo di Pavarotti. Sì. Grande tenore, bel ragazzo. Oltre che entrambi. I nomi diciamo che non sono quelli veri. Ah, ok. Anche per insomma, non tutti quanti, non per non far riconoscere le persone, e non tutti quanti, insomma, penso che non avevo l'autorizzazione per poter usare quelli veri. Ecco. Lei l'ha scritto di nascosto anche lui. Sì, io l'ho scritto, è stata una sorpresa che ho voluto fare al mio compagno, perché Arian Nalen è il mio compagno. E quindi ho usato dei nomi di fantasia, sempre albanesi, ma di fantasia. Sì. Ecco. Posso chiedere, la componente autobiografica c'è? Diciamo che un po' in Alina ci sono il carattere di Alina e la personalità di Alina sono io fondamentalmente, ci sono dei caratteri miei. Poi naturalmente una parte di Alina è anche... un po' la famiglia di Alina è un po' inventata, questa sì, alcuni tratti, altri no. Ho creato da cose vere, insomma. Però ovviamente avendolo scritto io ho messo sicuramente anche parte di me. Hai insegnato italiano anche agli stranieri? No. Questo è, come dicevo, alcune storie le ho raccontate. Quella che ha insegnato italiano è una ragazza che ha sposato un albanese. E ho fatto un insieme di è stata una confluenza di storie che poi ho raccolto in questo libro. Naturalmente la protagonista femminile per certi aspetti, che chi vorrà leggere il libro poi conoscerà, e non li sto a svelare, è anche rispecchia alcune parti del mio carattere e della mia personalità. Però non è la mia storia. Ha insegnato l'italiano solo un po' al suo compagno, probabilmente. Ecco, sì, forse in questo senso. Sì. Ecco, dicevo di Seymir, questo personaggio che appunto non riesce a partire, però avrà anche lui la sua storia. Ed è tra l'altro, lo nomino con molto piacere perché è il mio personaggio preferito, quello a cui sono più affezionata, è la figura quasi più drammatica del romanzo. E poi appunto è passato questa traversata che segna un po' è la linea di demarcazione tra la prima parte del libro e la seconda parte. Arriviamo a Brindisi, dove appare questo nuovo protagonista femminile che è Alina. E in Alina un aspetto che salta all'occhio ed è ottenuto particolarmente a sottolineare è proprio l'assenza di pregiudizi. Ho detto in svariate presentazioni, ci tengo a sottolineare che secondo me la differenza che per me ha la parola accettazione e la parola tolleranza. Spesso e volentieri parlando di stranieri, di immigrati, si usa la parola tolleranza dando un significato positivo che per me non è così positivo. Tolleranza vuol dire appunto tollerare, cercare di prendere al meglio, però senza quella positività che invece ha la parola accettazione. E Alina è proprio la quintessenza di questa accettazione. Alina non vede mai Malen come un ragazzo extracomunitario, ma lo vede come un ragazzo qualsiasi, come una persona prima di tutto. Non c'è mai il pregiudizio da parte di Alina. Questo è un aspetto che salta molto all'occhio, anzi addirittura è Valen che si fa qualche problema nei suoi confronti. Ma io, una ragazza così che viene da me, si rivolge a me, io che sono un extracomunitario, cosa avrò mai da offrirle, no? C'è una parte in cui poi lui e i protagonisti si confrontano su questo argomento, dove sono più loro che si dicono forse noi non possiamo, non abbiamo niente in questo momento da offrire. Lei invece non pensa mai a questo, non viene mai fuori. È proprio, secondo me, la quintessenza dell'accoglienza, quello che forse a volte manca e viene chiamato in maniera sbagliata, viene camuffato con tolleranza. C'è una forte linea di demarcazione tra le due parole, c'è una forte differenza. Secondo me bisognerebbe pensarci prima di usare la parola tolleranza, non la trovo una parola positiva, almeno nel mio sentire. Ecco, e prego. E implica un po' una supponenza. Esatto, c'è un qualcosa, implica una superiorità, io sono superiore quindi ti tollero, non c'è una, non è un dialogo alla pari. E questo invece tra i due protagonisti, tra Malena e Alina, è proprio un dialogo alla pari. E sono due ragazzi giovani, tutti e due, che non c'è differenza, si vivono per la loro giovinezza, per l'amicizia e l'amore che poi nasce tra di loro. E parlavo prima della grandissima umanità della popolazione, forse nei giornali, io prima di scrivere questo romanzo mi sono andata a documentare, ho letto tutti i giornali dell'epoca, dalla Repubblica, il Corriere, all'Espresso, insomma, tutto quello che c'è, è stato scritto. E spesso e volentieri si parlava di il governo che ovviamente con tutto le verità che ci sono dietro il governo e il rallentamento dei soccorsi, le difficoltà, gli inceppi eccetera, però troppo poco spazio secondo me è stato dedicato a quello che invece ha fatto la popolazione, la gente comune. La gente comune è stata veramente splendida e commovente. Vi invito, se avete la curiosità, di andare a leggervi queste documentazioni, perché sono veramente commoventi. Io veramente mi sono commossa, ho pianto leggendo determinate cose. E così volevo darvi un esempio di quello che è successo, questo è il fatto vero, ma che poi ho avuto conferma dai giornali. I giornali proprio hanno raccontato queste, alcuni giornali, pochi sprazzi qui e là, hanno raccontato questi episodi che secondo me sono la parte più bella, no? Di tutto il meccanismo dei soccorsi. Ma vediamo se trovo. Allora. Ecco, praticamente cosa succede? Vi anticipo un attimo, faccio una premessa. I due personaggi insieme al gruppo con cui sono arrivati decidono, visto che arrivano in questo porto disseminato di persone, c'erano già persone che dormivano all'interno dei sacchi di nylon, non si poteva neanche muoversi, ma immaginate 7.000 persone che scendono da una nave, decidono di andare verso il centro di Brindisi a prendere un caffè con i pochi spiccioli che avevano in tasca, a riscaldarsi un attimo. Arrivano in centro a Brindisi e trovano un'insegna con su scritto bar. Vuole entrare per primo, ma una volta all'interno ebbe l'impressione di aver sbagliato ingresso. Quello non era un bar, almeno non come quelli cui erano abituati in Albania, ma un hotel a 5 stelle. Si bloccarono perplessi. Nessuno osava muoversi, tutti intimoriti come se avessero profanato un santuario. Ma lei si guardò intorno estasiato, non aveva mai visto una tale magnificenza. Il pavimento splendeva come se avessero passato la cera un minuto prima. Erano di quelli alla veneziana, come si usava anche in Albania, solo che questo sembrava fatto di pietre preziose, in nuance che andavano dal crema alla nocciola e che conferivano all'insieme un aspetto nobile ed elegante. Gli arredi erano moderni, lussuosi. I tavoli in vetro e legno erano circondati da sedie con sedute imbottite di velluto bordeaux. Ci si sentiva comodi solo a guardarle. Il balcone era lungo e massiccio, con un piano in marmo scuro che riprendeva la tonalità del pavimento e profili in ottone lucidissimo. Sopra erano collocati tre recipienti, grandi e dorati, dai quali spuntavano dei cucchiaini, alcune coppette cariche di bustine colorate e delle ciotole colme di patatine e cioccolatini. Ma ciò che colpì di più Malen fu la vetrina, lunghissima ed enorme, che conteneva una quantità indefinibile di pasticcini, tartine, panini. Ce n'erano di tutti i tipi e colori, contrassegnati da cartoncini che ne indicavano il nome: pigna alla crema, al cioccolato, alla nocciola, sandwich ai gamberetti, al prosciutto, al formaggio, panini stracolmi di verdure e salumi, sapori che nemmeno conosceva, in una quantità tale da far girare la testa. Non aveva mai visto prima una tale abbondanza tutta insieme. Il profumo era irresistibile, ma dove erano finiti? Nel paradiso del cibo? Eppure Malen era sicuro di aver letto bene l'insegna. Doveva esserci un malinteso, non si erano aspettati tutto quel lusso. Forse in Italia i bar erano questi. Certamente al di fuori della loro portata, lì dentro non si sarebbero potuti permettere neppure un bicchiere d'acqua. Si guardarono l'un l'altro sconfortati e si voltarono con l'intenzione di uscire. Non ebbero nemmeno il tempo di avvicinare la mano alla maniglia che vennero bloccati da una voce gentile. «Ma dove andate? Prego, prego, accomodatevi! Non abbiate timore, mica vi mangiamo!» Si era avvicinato a loro un uomo corpulento, dal viso grassoccio e un'enorme pancia, avvolta in una camicia immacolata e talmente stretta da far temere che i bottoni saltassero ad ogni respiro. Furono spiazzati. Se da una parte erano tentati da un'offerta così allettante, dall'altra sapevano che accettarla voleva dire dar fondo alle loro già esigue risorse. Nel frattempo, il cameriere aveva già avuto ordine di preparare un tavolo in un angolo appartato in fondo al locale e faceva loro cenno di sedersi. Come potevano ormai rifiutare? Nonostante il tripudio di tentazioni che offriva quel luogo, convennero di limitarsi a un caffè. Ormai era troppo tardi per uscire, ma così almeno avrebbero arginato i danni al minimo. Tuttavia, l'uomo del bar sembrava di tutt'altro avviso e si avvicinò al tavolo. «Ve lo bevete volentieri qualcosa di caldo?» chiese loro sfregandosi le mani. Ma Len e Vera annuirono subito. Artan tradusse per gli altri. «Grazie, un caffè per tutti», confermò. Nell'attesa continuavano a guardarsi intorno esterrefatti. Vera, nonostante il bisogno impellente, non riusciva a trovare il coraggio di chiedere se c'era una toilette. Ma man mano che passavano i minuti, il bar si faceva sempre più affollato, con un viavai di persone alle quali il cameriere, dietro il bancone, serviva una tazza fumante, grande o piccola che fosse, senza neppure aspettare l'ordinazione. Dovevano essere clienti abituali. Bevevano, pagavano e uscivano. Alcuni lanciavano uno sguardo frettoloso in direzione del gruppo seduto in disparte. Nel giro di pochi minuti arrivò il grassone con 5 caffè, accompagnati da un bicchiere d'acqua ciascuno. «Non è che avete bisogno di usare il bagno, per caso?» chiese loro. Vera non aspettava altro e annuì sollevata. L'uomo l'accompagnò fino all'ingresso, una porta ben camuffata da un gigantesco specchio che faceva da sfondo all'enorme selezione di alcolici e dava l'impressione che quel locale fosse grande il doppio di quello che era in realtà. Lasciata Vera, sparì nuovamente dietro al bancone e comparve con 2 vassoietti carichi di brioche e di panini. «Forse ci deve essere un errore», intervenne Artan a nome di tutti, leggendo il terrore negli occhi degli amici. «Non potevano assolutamente permettersi quel ben di Dio. Non abbiamo ordinato queste cose». «Lo so bene», disse il grassone, «offre la casa. Dopo quello che avete passato, penso che abbiate diritto di rifocillarvi un po'», concluse con un sorriso affabile e battendo una pacca sulla spalla Ermal, che era seduto di spalle davanti a lui. «Forza, forza, non fate complimenti», l'incitò, lasciandoli soli al tavolo. Per la seconda volta restarono senza parole. Ma cos'era quello? Il paese di Balocchi? Da quando avevano messo piede in territorio italiano, non avevano fatto altro che assistere a gesti di altruismo. Forse nell'area del porto era più normale, dato che un'intera organizzazione si era mossa per accoglierli. Ma in un bar così lussuoso non si aspettavano certo un tale trattamento. Ma lei era a bocca aperta. Vera, che nel frattempo era tornata al tavolo ed era già stata informata sull'accaduto, aveva le lacrime agli occhi. Artan era inebetito, così come Ermal e Samira. Dopo un attimo di esitazione, Malen non resistette e allungò la mano sui panini. Ne prese uno bianco e soffice, farcito con prosciutto, formaggio e una salsa giallognola. Il sapore era squisito. «Ragazzi», disse, «non perdetevi questa delizia, è il panino più buono che abbia mai mangiato». Anche gli altri si fecero coraggio e, in men che non si dica, spazzolarono l'intero contenuto dei vassoietti. Mangiarono tutti con gusto. La giornata sembrava brillare di luce diversa, riaccendendo la speranza e il buon umore. Forse il futuro non sarebbe stato così nero. Il grassone intanto, dietro al bancone, li guardava furtivamente con soddisfazione. Quando ebbero finito, si avvicinò con garbo per chiedere se gradivano qualcos'altro e approfittò per fare un po' di conversazione. Si presentò come Sergio, il titolare del bar, e volle conoscere tutti i nomi, il grado di parentela che li legava, fece domande sull'Albania, e sul viaggio che avevano affrontato. Era sinceramente interessato alle loro condizioni e continuava a domandare se stessero davvero bene, se avessero un posto in cui dormire i giorni successivi. Passò così più di un'ora. «Mi sa che ora dobbiamo andare», si inserì Maleno ad un certo punto. Era meglio che cominciassero ad avvicinarsi al porto per essere presenti in caso di novità sulla notte. Prima di alzarsi chiedero il conto. «Va bene così», rispose Sergio, «facciamo tutto la prossima volta che venite a trovarmi». Per quanto Artan e Malen insistessero, non ci fu verso che accettasse nemmeno 1.000 lire. Non voleva sentire che tirassero fuori dei soldi. Li accompagnò alla porta, dicendo loro di tornare presto a trovarlo. Ringraziarono tutti, chi in albanese, chi in italiano, e lui strinse loro la mano, salutandoli ad uno. Il resto della giornata... No, basta, mi sono fermata qui. Ecco, questo è quanto... è solo uno degli esempi dell'accoglienza riservata a questi profughi dalla popolazione di Brindisi. Poi ci saranno degli altri episodi all'interno del libro dove addirittura i due protagonisti vengono accolti in casa di una famiglia che gli consente loro di lavarsi, gli offre dei vestiti in cambio. Ed è costellato il libro di queste manifestazioni di umanità, che per me sono state forse anche la scintilla che mi ha fatto pensare di scrivere questo romanzo, e sono veramente storie toccanti, molto umane, e di cui ci si dimentica troppo spesso. Poi naturalmente il libro ha una sua conclusione che non voglio svelare, perché naturalmente chi interessa a leggerlo, siccome è disponibile anche qua in biblioteca, chi interessa a leggerlo, mi spiacerebbe rovinare la storia e il finale. Io avrei concluso, se qualcuno ha una domanda o magari Tritan, se hai qualcosa da aggiungere. Venendo qua abbiamo visto le due, cioè in quei pochi giorni abbiamo potuto vedere le due Italie, mm-hmm. nel senso che quando siamo arrivati giù c'era tantissima solidarietà umana, di gente che lo faceva, cioè in alcuni casi abbiamo saputo che erano organizzazioni delle varie parrocchie cattoliche che venivano e volontariamente cucinavano, perché noi ci hanno distribuito, hanno chiuso le scuole e ci hanno messo dentro nelle scuole, e praticamente questi venivano e cucinavano per noi, insomma, si organizzavano a turni, senza contare poi le famiglie che hanno aperto le porte e le docce che funzionavano 24 ore su 24. E lì abbiamo visto tanto calore umano, tanto solidarietà e poco Stato, insomma. Quando siamo arrivati a Bolzano c'era, poi su Amonguelfo era il contrario, nel senso che era tutto organizzato alla perfezione nella caserma Battisti di Amonguelfo, però insomma, del paese venivano in due, in tre, insomma, che è un po' diverso. E comunque da questo punto di vista siamo stati anche vantaggiati, perché qua sono stati il primo, diciamo, centro in tutta Italia che abbiamo avuto finito tutto l'iter burocratico ed eravamo pronti poi a iniziare a lavorare, insomma, ad avere tutti i documenti in mano. Però è vero che a Brindisi più che una volta siamo rimasti, insomma, commossi dalla solidarietà. Quello che io ricordo sempre è quando avevamo deciso di venire a Bolzano, però non avevamo soldi, allora andavamo in giro a cercare qualche negozio, qualche laboratorio, di fare qualche lavoretto per poterci poi guadagnare quello che ci serviva per prendere il treno, insomma. Perché giù siamo rimasti una decina di giorni. E poi ci hanno portato dei pullman, ci hanno portato fino alla stazione ferroviaria, e poi da lì con dei treni speciali, dove eravamo solo noi, ci hanno portato fin su da Brindisi. Ma sì. Non era una scelta. No, non era. Allora, la scelta erano in due direzioni: o andavamo a Torino, allora c'era detto così, Torino e Bolzano, ma poi in realtà non era Torino e Bolzano, ma era Susa e Amonguelfo. Erano solo i capoluoghi città, delle province, insomma, per essere. E allora lì potevi scegliere, perché erano due pullman nella scuola dove noi stavamo, e ci hanno detto chi vuole andare a Torino, chi vuole andare lì, cioè questa era la scelta. Poi una volta salito sul treno eravamo solo noi, cioè non era un treno per i viaggiatori. E che in 12 ore. Quanti siete venuti a Amonguelfo, insomma? A Amonguelfo noi siamo arrivati in 500. Quante persone? 500. Quasi 500, 473, se non sbaglio. Di 1200 abitanti a Amonguelfo. Era almeno all'epoca, adesso non so. E comunque siamo entrati in una falegnameria. E abbiamo chiesto se c'era qualcosa da fare ed era il titolare che parlava ci ha chiesto, sì, io parlavo, sapevo già italiano. Sì. E allora ci ha chiesto, ha cominciato a parlare con noi, ci ha chiesto cosa facevate in Albania, noi gli abbiamo detto che insomma avevamo studiato, abbiamo fatto le medie in elettrotecnica, e questo si è messo da... si è certificato, nel senso che ci ha chiesto la legge dell'OM per vedere se non li stavamo raccontando delle bugie. La cosa che abbiamo notato era che c'era uno dei... ha parlato qualcosa con qualcuno degli operai che ha fatto un giro di tutti gli altri operai. Alla fine, quando, mentre lui insomma ci intratteneva, questo qua è venuto e gli ha dato dei soldi in mano, che questo poi ce li ha dato. E io ancora oggi mi sento male quando... Dai, coraggio. No, è che... è molto toccante. Siamo rimasti con le lacrime. Praticamente di nascosto ha fatto la colletta per noi e lui ha rifiutato perché io non parlavo l'italiano. Lui ha detto no ragazzi, prendete che vi serve. E poi gli ha dato il lavoro? No. Lui non aveva lavoro per noi perché era un tappizziere, noi eravamo tutti due elettricisti. Però il gesto che ha fatto ci ha lasciati veramente molto, e lo ricordiamo ancora. E nel libro sono solo pochi episodi di quello che in realtà, almeno per noi due, ci sono stati, insomma. Anche perché lei deve rendersi conto che in 20.000 in totale di questi albanesi arrivati, lo Stato è stato inesistente per i primi giorni perché non aveva ancora preso la decisione di tenere o no. Quindi siamo stati appeso della popolazione locale. Sì. Uno dei episodi, mi ricordo che quando siamo arrivati, non so, forse la nostra fortuna, eravamo nell'ingresso del porto, no? E la gente che aveva sentito le notizie veniva con la macchina, tirava fuori, abbassava il finestrino, tirava fuori un sacchettino e andava via. Non gli interessava chi era, era solo il gesto che loro facevano, erano sacchetti che loro preparavano con i panini per tutti i... per tutti quanti. Era veramente molto... ma vedi che queste cose... e purtroppo non si sa, noi siamo rimasti veramente molto colpiti, molto molto colpiti. C'era, infatti, cioè, ognuno quello che poteva senza... ma era le 11 di sera, quindi era notte, mezzanotte, era notte. La gente usciva di casa perché sapeva che qualcuno... e lo Stato era inesistente. Per una settimana c'era ancora il dubbio che queste persone li mandiamo indietro, li teniamo. C'erano tutti i volontari o tutte le associazioni volontarie oppure proprio i privati, i cittadini. Cioè c'era il privato che portava un panino e c'era, io ricordo, anche uno che presumo che fosse uno, un fruttivendolo, che è venuto, ha aperto il bagagliaio e ha dato delle cassette di frutta, io ricordo le pere. Erano buoni. Quella fame che aveva. Sì, infatti poi questo episodio anche l'ho letto anche perché non c'è solo questo aspetto di umanità, ma anche la cosa che mi lasciava sconvolta di questi racconti era la povertà in cui avete vissuto. Dove diciamo il bar per noi è pasticcini, cose, trovare, uno può scegliere questo. Non era così. E c'è un descrivo qua, c'è una 10 righe dove questi ragazzi, Malen va in giro per la città di Brindisi aspettando di essere sistemato, dove guarda le ragazze, lui mi ha sempre colpito quando lui me la diceva, a lui facevano impazzire le magliette con le scritte. Non sapevamo cosa volessero dire, ma ci piacevano da matti, no? Ecco, cose che per noi nel 91 erano una banalità, cioè erano cose scontatissime. E quindi a volte mi trovavo nell'ascoltare queste narrazioni sbalordita dall'idea di quanto noi non sapessimo di cosa stava succedendo dall'altra parte del mare, perché sono 70 km in linea d'aria, non siamo dall'altra parte del mondo e nessuno sapeva di questo. Io ascoltando queste storie, che poi appunto quando apri un rubinetto si apre una diga, no? Quindi mi arrivavano un sacco di storie da tante altre persone, ho conosciuto poi tantissime persone albanesi che mi raccontavano la loro storia. E una persona per esempio mi ha raccontato che si è messa a piangere davanti allo scaffale, ai nostri scaffali del cibo per animali nei supermercati. Si è messa a piangere perché diceva, noi non avevamo neanche da mangiare, avevamo tutto razionato e voi avete scaffali interi di cibo per cani e gatti, no? Ecco, quindi anche questa inconsapevolezza, molte persone che hanno letto il libro mi hanno detto, mi hai aperto un universo, perché proprio sull'Albania si sapeva molto poco, si sa ancora molto poco, forse solo chi si interessa, ma anche forse perché non interessava a nessuno, forse una storia poco interessante, perché forse non c'erano interessi economici, non lo so. Per quale motivo? Un paese che è chiuso e basta, nessuno. Solo chi era interessato è venuto a conoscenza di determinate cose. Non si poteva neanche entrare così facilmente. No. Esatto. Mi ricordo che nell'88 sono andata per studio in Grecia, mi ho fatto la traversata con la nave, insomma. E siccome a un certo punto ho costeggiato le coste dell'Albania, ci siamo detti ma c'è qualche forma di vita? Vedi? È vero. Il regime l'aveva tenuta proprio isolatissima. Sì, non sapevi niente. Sì, era prima di tutti, il resto del mondo non sapeva niente. Usciva fuori solo chi lo Stato lo mandava fuori, e entrava dentro solo chi lo Stato permetteva di andare dentro, compreso turisti, ed erano tutti sorvegliati, cioè anche quello che era turista che riusciva a entrare, perché di solito c'era in Italia all'epoca un partito comunista marxista leninista, non questa qua, c'è quattro gatti, insomma, ed erano loro praticamente che ai quali gli si chiedeva, il governo faceva riferimento per chiedere se una persona lo poteva far entrare o no, ed erano pochi anche quelli che entravano, e che ovviamente erano persone garantite, nel senso che quando tornavano in Italia dovessero parlare bene della realtà albanese, perché questa era la paura, che questi tornassero raccontando, e poi ovviamente quando arrivavano in Albania non potevano andare liberamente dove volevano. C'era tutto previsto, cioè si va in questa città, si entra sempre qua, si esce qua, sempre accompagnati da delle persone che in realtà non erano guide turistiche, ma erano persone dei servizi segreti, e che non permettevano di andare dove le persone avessero voluto andare. E ovviamente soprattutto la garanzia che poi quando tornavano in Italia scrivevano delle bugie. Noi siamo andati a Zara in Albania. Non mi ricordo l'anno, ma prima del 90. E siamo entrati, ci hanno avvicinato tre signori italiani e volevano sapere notizie, e noi a parlare normalmente. Da un momento all'altro uno ha fatto così, e erano la polizia che controllava questi qui. Allora due sono andati, uno ha continuato a parlare, a chiedere, a raccontare. Ma questo sguardo l'abbiamo visto subito, era un controllo tremendo. Ah, io ho visto qualche sera fa per la seconda volta La vita degli altri. Bellissimo. E era così. Era così. Anche in Albania. Era così. Bellissimo film. Era così. Tutto chiuso e controllato. Persino un giornale non si poteva leggere. Se veniva dall'estero, che sono certo. Come nel film. Sì, era tutto messo sotto silenzio, tutto ciò che non era in linea con il regime doveva essere passare sotto silenzio. E adesso l'Albania sta rinascendo? No, si sta morendo. No, cioè, io dico sempre che il segno che mostra meglio, diciamo, che la qualità di vita, e comunque il tenore di vita sia molto meglio, il fatto che comunque l'Albania gli albanesi da 3 anni ormai non hanno più bisogno del visto. Cioè un albanese, se vuole, col suo passaporto si presenta all'aeroporto, compra il biglietto e viene in Italia. E non come noi. Siamo scoperti. Non deve più sapere. Ovviamente per far entrare un paese nei paesi Schengen, ovviamente prima si accertano che il tenore, perché altrimenti non rimane nessuno, vengono tutti qua, insomma, come siamo venuti noi. Invece non c'è stato nessun. L'unico boom che c'è stato è stato perché questo è stato in dicembre, praticamente verso la metà dicembre, che è stato, si sono aperte queste possibilità, che non bisogna più. E c'è stato un boom di genitori che per la prima volta venivano in Italia hanno fatto il capodanno praticamente, sono tornato, poi non c'è stato nessun boom, diciamo, nessun altro esodo da questo punto di vista. C'è una libera circolazione, insomma. Sì, sì. E questo mostra che comunque lì la situazione è uno non parte più così facilmente come partivamo noi. Poi voi non avevate documenti, no, qui avete buttati via. No, no, io, cioè, documenti, noi non vivendo in un paese controllato in questo modo, nessuno di noi aveva l'abitudine di tenere la carta d'identità. Non c'era proprio l'abitudine? Cioè, io qua in Italia sono abituato ad avere la, cioè, il passaporto, non esisteva, perché il passaporto lo prendeva solo quello che lo Stato lo mandava, che ne so, per fare l'ambasciatore, l'impiegato in ambasciata, perché si riduceva in queste persone qua, diciamo, gli albanesi che uscivano fuori del confine dello Stato. E c'era solo la carta d'identità. E c'era solo la carta d'identità che per noi non era un'abitudine tenerlo dietro, perciò tutti quelli che sono scappati non avevano nessun documento con sé. No, infatti era guai se dicevi un altro nome, quindi dovevi dire la verità. Non è l'abitudine di mentire, quindi quando ti prendevano dovevi dire il nome e cognome. Infatti ho letto sul giornale, che lo riporto anche nel libro, un episodio di un ragazzo che stava tornando dal lavoro con la tuta da lavoro, no? E ha trovato degli amici, ha detto, dove andate? Ma andiamo in Italia, vieni con noi. E lui ha preso e è andato via. E appunto in un'intervista ai giornalisti di Brindisi ha raccontato questa storia, senza neanche salutare la famiglia proprio. Ha preso e è andato. Quindi gente che partiva così, che coglieva l'occasione al volo, ma che occasione. Ma sul Monguelfo ce n'erano tre o quattro ragazzini che se ne erano andati così. Adesso non mi ricordo quanti, ma... Sì, sì, c'erano 3-4 che erano non accompagnati dai genitori, perché ragazzini ce n'erano, però quelli che erano partiti praticamente... Chi ha adottato? Sì, sì. Minorenni? Sì, sì, anche 17enni. Ah. Anche di meno? Sì, sì. Mamma mia, che avventure. Ed è commovente anche leggere come, nonostante la difficoltà, io lo vedo dagli occhi di italiana, che per me, io ero una ragazza di 20 anni, quell'ora anch'io, quindi per me era tutto scontato, vedere come anche la minima, l'episodio che narro all'interno della caserma, quando vengono poi dislocati nelle varie caserme, loro vengono assegnati alla camerata e ognuno ha un sacchettino con i beni di prima necessità, dentifricio, spazzolino. Questi che, e questo anche l'ho letto sui giornali, abbiamo persino, i giornalisti dicevano, ho persino l'armadietto, c'ho il sapone, no? Erano esaltati per queste piccole, ma senti, salimenta, senti che profumo, il dentifricio, no? Cose che veramente leggendo dicevo, ma porca miseria, veramente era un altro mondo, non sapevamo veramente niente e vivevate veramente in un mondo difficile. Penso che in Albania c'ho ancora la tuta dell'esercito italiano che mi hanno dato. Cioè, andava in giro con quello perché c'erano vestiti dell'esercito. Perché ci hanno dato la maglia dell'esercito. Appena dell'esercito quando stavamo giù nella scuola di Brindisi. Poi ci hanno dato tutta la roba, sia il dentifricio, quelli dell'esercito. E c'era anche la tuta blu con qua alle spalle la cosa tricolore e scritto EI qua. Penso di averlo ancora in Albania, non qua. Ecco, io avrei concluso se qualcuno ha qualche domanda, se qualcuno è interessato lì c'è il libro. Se avete domande sono qui. Che vite da romanzo proprio. Eh sì. Già per sé la vita di uno che emigra è uno che emigra poi in queste condizioni o che scappa da un regime. Certo. Possiamo parlare male noi? Certo. Avete fatto ammattire da morire. Non noi due, vero? Beh, adesso è noi due. Perché seguire 500 persone, se 400 è... 498. 473 o 72. E poi alcuni molto gentili, alcuni gentili finti, alcuni monelli. C'era differenza e io ero quella che distribuivo il cioccolato, le sigarette, mi assalivano, non respiravo, se sareste venuti anche voi a prendere le sigarette. Non fumavamo, eh? Ma bolli. Che la proloco di Monguelfo sì. È stata molto, sì, è molto vero. Generosa con loro. Sì, molto, tanto. Hanno fatto una raccolta di tutto. Ma dappertutto vi ho parlato, mi ricordo una volta si è fermato il treno a Bologna e abbiamo visto anche quello era. Abbiamo visto delle persone che si andavano al tabacchino, uno prendeva, ma senza neanche chiedere a qualcuno, due o tre pacchetti di sigarette e andava sul treno e li allungava, ricordi che li allungava sulle finestre. Però arrivati a Monguelfo non volevano scendere. Questo è vero. Questo è vero. E lei che li ha accolti, perché io ero Bolzano. E certi erano terrorizzati, erano proprio perché pensavano di... C'era neve, c'era visto, hanno detto Bolzano, il treno non si è fermato a Bolzano e si vedeva le facce pian pianino diventavano gialle. Io andavo avanti, poi si è visto la neve, le montagne, e no, non ci torno nei conti. Adesso si pensava sempre il governo abbia fatto qualche trattativa per fare un giretto e portarci in Albania dall'altra parte, insomma. Quindi la gente si è spaventata molto. Ma invece Monguelfo era bello. No, ma era solo la paura per sì. Portarci in Albania, insomma, per noi andava bene dappertutto. C'era anche il fatto che comunque per noi le montagne sono simbolo di povertà, insomma. E per noi Brindisi era meglio, perché noi sapevamo noi che le nostre montagne non erano povere. E allora quando siamo arrivati, io ricordo che non volevano scendere, a un certo punto un poliziotto, erano tutti in assetto antisommossa con il casco, fa, c'è qualcuno che parla italiano, gli dico io sì, digli fa che o scendono o li faccio scendere io, il mosso il manganello. Quelle buone. E quando siamo arrivati in caserma, nel cortile della caserma, c'erano due cumuli di neve sì. Che penso fossero 5-6 metri il salto, sì, tutto insomma, un guerfo è un po' difficile in inverno, no? Per uno che è in aprile, marzo, 18 marzo mi sembra. Un meno 10 ci riesce a farlo anche in quel periodo, no? Sì, e per loro si è rotta il braccio lei, perché l'hanno chiamata d'urgenza, io ero a Jesolo perché dovevano arrivare degli altri a Jesolo e lei è andata al mio posto al commissariato del governo, neanche fa la posta, è caduta e si è rotta il braccio, per cui in divisa forse lei non l'avete mai vista perché andava sempre col braccio. Ma io ho l'impressione che in un telegiornale del video 33 che io dovrei avere da qualche parte, lei si vede sul col braccio. Sì. Lei ha fatto servizio ma col braccio, che non doveva, non si può, quando era invalida, non era. Però ci ha fatto lavorare sodo, perché poi l'organizzazione, i documenti, tutte le informazioni. Soprattutto i documenti, perché vanno tutti privi di documenti, quindi devi fare il documento. Per scrivere i nomi, quei poveri soldati, certo, FGAY, non può fare. Perché hanno dei cognomi molto, tanti consonanti e poche vocali. E poi c'erano quelli che approfittavano. Ce n'è una che poverina doveva prendere sempre lo yogurt e non passavano. E lei andava a comprare lo yogurt e il pane e il cibo per la celiaca, lo pagava lei. E lei la pretendeva, se era il pane qualsiasi, non dico il nome perché c'è ancora qui a Bressanone. È monitorata. Ah sì, tante donne anche. Sì, bambini anche. C'erano famiglie. Ah, famiglie. Cioè, donne da sole, non penso. Non penso di aver visto donne da sole, ma famiglie sì. Silvia? Silva? Silvana? Che era nel nostro gruppo. È andato a sud. No, anche tu. Ah, vabbè, ovviamente che in 25.000 persone che sono arrivate ci sono state anche donne sole. Però qua a Monguelfo non penso che c'erano delle donne sole. C'erano famiglie. C'erano famiglie. Comunque la cosa, secondo me, almeno che a me è rimasto in mente, è stato l'olio extravergine di Dio. Perché da noi non c'è, pur essendo noi un paese che produceva, no, producevamo, ma andava tutto, era una di quelle cose che facevano valuta esportandolo. Veniva esportato. Perciò noi non avevamo olio extravergine in negozio, era da un bel po' di anni. Allora, quando sui tavoli, quando c'era sul tavolo c'era una bottiglia, il primo che arrivava lo prendeva, metà bottiglia lo versava sulla sua insalata, e il secondo, il terzo lo prendeva, andava dal soldato e il soldato glielo riempiva. A un certo punto hanno visto che non ce la facevano più, se ne costavamo più in olio d'oliva che in tutto il resto, e un bel giorno ci dicono: guarda che quello lì è per tutto il tavolo. C'era quella palazzina da una parte che, cioè, nella quale c'erano tutti gli abiti, potevate entrare e prendere. Anche lì c'erano alcune che erano proprio maniaci. Sì. Che non l'avevi visto mai. E io che appunto. Ma di queste 500 persone sono rimasti tutti o tanti sono tornati? Una, o una parte è rimasta a Bolzano, poi i dintorni, insomma, poi una parte anche è ritornata dietro. Qualcuno è tornato? Qualcuno inizialmente è tornato, sì. Però la maggior parte è rimasta. Sono rimasti, sì. Rimasta, sono ancora, sì, sì. Insomma, sì, una buona parte di quelli che erano voi. C'è ancora a Brunico un forte gruppo, insomma. Ah, delle... E sono rimasti in posteria, beh. È morto qualche anno fa. La maggior parte invece è a Bolzano. Aveva una delusione perché c'erano dei monelli da tra di voi, no? E lui è rimasto proprio deluso. Era un dottore di Bressanone, bravissimo, umano, e che è corso subito a aiutare i suoi compatrioti. Però alcuni l'hanno deluso. È rimasto abbastanza. Poi c'era il dentista che arrivava. Una volta alla settimana arrivava il pullman con il pullman. Aveva un camioncino. Un camioncino. Noi questo non li abbiamo vissuti perché noi siamo stati i primi che siamo andati via dal campo. Dove siete andati? Qua. Bolzano. Con la prefettura? No, abbiamo trovato il lavoro. Assolutamente. Praticamente siamo partiti addirittura prima di avere il permesso di soggiorno, perché avevamo due vantaggi. Lui aveva qua la sorella che ci aveva trovato una stanza e che ci ha praticamente pagato l'affitto finché noi trovavamo lavoro. Invece io ho conosciuto un giornalista all'epoca, che oggi è un politico, che mi ha trovato, che era anche il figlio del prefetto, del commissario di governo di allora, sì, Alessandro. E Urci mi ha trovato il lavoro, così siamo scesi, abbiamo dovuto dopo una settimana tornare su per prendere il permesso di soggiorno, perché intanto avevamo la stanza, così siamo... E perciò invece Guracucci l'ho incontrato, però Guracucci era uno, insomma, abituato, non aveva mai visto l'Albania povera, perché lui era suo padre, cioè lui è venuto qua da piccolo. Suo padre poi è stato anche in Albania, è stato un ministro, suo padre è stato un personaggio della storia albanese, è stato il direttore dell'unico ginnasio di Tirana, mio nonno l'ha avuto come professore, poi lui è diventato anche ministro dell'istruzione pubblica, e poi lui aveva studiato, se non sbaglio, a Graz, il padre del dottore, e lì aveva conosciuto una brissinese e si erano sposati, e lei era venuta in Albania finché c'era lui che faceva, poi quando i comunisti sono entrati loro se ne sono andati e sono... Penso che il padre di Guracucci sia anche qua, sepolto a Bressanone. Bene, grazie allora Lorenzo. Grazie a voi. Grazie.